gente passare, questo è un altro giorno che nasce, ci guarda e muore, finti sorrisi dipinti, ad erbe sulle facce della gente vedo passare. E vanno chissà dove, vedo la gente passare sulle facce della gente che vedo passare e vanno chissà dove. Vedo la gente passare frettolosamente, gente stanca di vivere, gente impaurita, gente che non ha niente o tutto. Un pescivendolo vende la sua merce, un altro vende sogni o incubi, dipende. Gente che cerca chissà che. E cerca qualcosa che mai arriverà. E che mai finirà. Vedo la gioia.